Eccoci qui in questo lunedì 7 novembre. I titoli di apertura sono dedicati soprattutto alla situazione politica e al governo sempre più in bilico e alla situazione anche economica e anche alla questione maltempo. Per quel che riguarda la cronaca, le polemiche per la tragedia avvenuta a Genova, ma insomma un maltempo che davvero non lascia tregua a molte città italiane. Intanto i titoli di apertura per il Sole 24 Ore dell'edizione del lunedì: metà delle imprese paga più tasse. Questo è il titolo nel maxi emendamento giochi aperti sulla riduzione del carico tributario. Per il Corriere della Sera: governo sempre più in bilico, questo è il titolo di apertura. Per Repubblica: Maroni, inutile accanirsi, è finita, la maggioranza non c'è più. Questo titolo anche sulla Stampa, il ministro dell'interno: Maroni, la maggioranza non c'è, inutile accanirsi. Per il Giornale: braccio di ferro PDL DC. E non è che c'è un refuso nel titolo, L'UDC viene ironicamente definito DC, come la vecchia Democrazia Cristiana, dal Giornale. Per il Messaggero: la maggioranza non c'è più, è la frase di Maroni. Il Secolo XIX invece continua ovviamente sulla situazione a Genova. Avviso beffa dopo l'alluvione, la mail del comune, ore 15:35, tre ore dopo il dramma, non fate uscire i ragazzi da scuola. Per l'Unità: che viene dopo, e c'è la foto di Palazzo Chigi. Questi insomma alcuni dei titoli di apertura. La situazione politica la vedremo più avanti. Intanto da cosa vorrei partire? Beh, è uscito un libro. Un libro che racconta, per il momento negli Stati Uniti, gli ultimi attimi di vita di Osama Bin Laden, ucciso in un blitz dei Navy SEALs americani in Pakistan ad Abbottabad. Ebbene, sappiate che quello che ci è stato raccontato nella notte, di quello che è successo nella notte tra il 1° e il 2 maggio scorso, più o meno nelle prime ore, più o meno è tutto falso, stando almeno alla ricostruzione di un Navy SEAL che ha partecipato a quella operazione, a quel blitz, che ora racconta tutto in un libro. Perché in realtà non ci fu questo intenso scambio di armi da fuoco, questa battaglia, fu un blitz di 90 secondi. Navy SEALs, racconta Glauco Maggi sulla Stampa a pagina 18, ma anche Repubblica vi dedica una pagina col titolo "Così abbiamo ucciso Bin Laden". I Navy SEALs arrivarono, un'operazione definita Easy Day, una giornata facile. L'autore di questo libro è Chuck Ferrer, che è ex capitano del SEAL Team 6, la squadra 6 dei Navy SEALs protagonista dell'operazione Lancia di Nettuno, così è stata definita quella in cui fu ucciso Bin Laden. Siamo atterrati sul tetto, nessuno ha sentito che ci avvicinavamo, in 5 secondi eravamo sul terrazzo, in 30 secondi eravamo in corridoio. Crankshaft, che è un altro dei nomi con cui veniva identificato Bin Laden insieme a Geronimo, ha messo la testa fuori dalla camera, ci ha visto, è rientrato sbattendo la porta, noi l'abbiamo aperta con un calcio e siamo piombati su di lui. Non è vero che qualcuno disse "per Dio e per il paese" prima di premere il grilletto, ci fu invece l'urlo della moglie che era con lui, Amal, la più giovane, che disse "non fate questo, non è lui". E Osama non era disarmato, anzi ha tentato di prendere una pistola automatica, ma prima che potesse raggiungerla, facendosi scudo con la moglie e strisciando sulle lenzuola, partirono 4 colpi dai SEALs che avevano sfondato l'ingresso. I SEALs dissero, hanno detto in questo libro, non avesse reagito, lo avremmo preso vivo, lo avremmo fatto prigioniero, ma ha cercato di prendere un'arma da fuoco. Insomma, gli ultimi attimi di vita di Osama Bin Laden. Mentre sul Messaggero vi voglio segnalare un giallo, che è un altro omicidio, in questo caso ben diverso, l'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Ebbene, sappiate che 36 anni dopo arriva una importante novità, una svolta, come viene definita in prima pagina del Messaggero: svolta nel delitto Pasolini, trovato il DNA di un terzo uomo. La notte del 1° novembre di 36 anni fa all'idroscalo di Ostia, Pierpaolo Pasolini e Pino Pelosi non erano soli. Dalle indagini condotte sui reperti conservati per anni al Museo di Criminologia di Via Giulia sono emerse tracce ematiche, dunque sangue, che non appartengono a nessuno dei due. Il DNA estratto dalle tavolette trovate sul posto e utilizzate per colpire lo scrittore e dagli indumenti appartiene a un soggetto terzo. Beh, una svolta di cui parla Claudio Marincola in prima pagina del Messaggero e poi a pagina 13, una svolta abbastanza clamorosa, una verità affiorata più volte, peraltro sostenuta nella sentenza di primo grado, ma ora viene anche chimicamente consegnata alla cronaca e soprattutto alla storia di quegli anni, indagini che sono andate avanti nel segreto più assoluto. Sono stati tenuti all'oscuro anche, per esempio, l'ex generale, il generale ex comandante dei RIS, Luciano Garofalo, che ha seguito gli esami in qualità di perito, è stato tenuto all'oscuro dell'esito finale per evitare fughe di notizie. Alla fine, però, i segreti non possono durare in eterno e dunque è stato trovato il sangue, pare, di una terza persona, ma anche impronte digitali da chi impugnò come arma quella notte quelle tavolette. E dunque una svolta del RIS, scrive il Messaggero, trovato il DNA di un terzo uomo nel delitto di Pierpaolo Pasolini 36 anni fa. E allora noi, prima di buttarci sull'attualità, la politica e le polemiche sul maltempo, ci fermiamo 6 minuti. 24 mattino. Allora, alle 7:34 minuti proseguiamo nella lettura dei quotidiani e vediamo che cosa ci propone la politica. Beh, come abbiamo sentito, dovrebbe essere davvero la settimana decisiva per capire se il governo ha o no i numeri per continuare. Intanto le agenzie dicono che già questa notte c'è stato un vertice notturno iniziato all'una, un vertice straordinario a Palazzo Grazioli, con Berlusconi, con Alfano, ma insomma con Gianni Letta. Questo per cercare di capire addirittura se per cercare di capire quali siano i numeri. Addirittura Repubblica oggi mette in prima pagina questa notizia: Alfano e Letta, Silvio sali al colle e dimettiti. E Francesco Bei che racconta questo retroscena: Silvio è finita. Dopo un pomeriggio passato a Palazzo Grazioli con Alfano, Letta e i capigruppi del PDL, il cavaliere è sul punto di mollare. E se il pressing del gruppo dirigente del PDL sortirà il suo effetto, oggi stesso Berlusconi salirà il colle per rassegnare le dimissioni. Si conclude così in maniera drammatica una lunghissima giornata. Questa è l'ipotesi di Repubblica, addirittura l'idea che un Berlusconi, prima del passaggio in Parlamento, preso atto che molti della maggioranza lo stanno abbandonando, potrebbe addirittura dimettersi. Una cosa che secondo me verrà smentita, a meno se Berlusconi vuol dar seguito a quello che ha detto ieri, cioè vado avanti, non mi dimetto, anzi ho i numeri e ci sono dei parlamentari che stanno passando dalla nostra parte. Tuttavia Repubblica dice è un'ipotesi, l'epilogo non è scritto, potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Sta di fatto che secondo questo articolo di Francesco Bei, tutti i maggiori collaboratori di Berlusconi, facendo i calcoli, dice ormai siamo scesi a 314 voti maggioranza e opposizione e quindi rischiamo la slavina. Molti che dicono a Berlusconi non puoi fare la fine di Prodi e cadere per un voto in aula, sarebbe un suicidio politico, in questo modo non avresti più titolo di parlare, l'iniziativa ci sfuggirebbe completamente di mano. Ma a questo si opporrebbe appunto un Berlusconi che dice vado avanti, ho i numeri, assolutamente ci sono appunto dei parlamentari che dall'UDC stanno arrivando nel Popolo della Libertà. Sta di fatto che ieri anche il ministro Maroni, che da tempo non parlava, è andato a Rai 3 da Fabio Fazio e ha detto questa frase sulla tenuta della maggioranza. Ha detto: se il governo cade si va a votare, viste le ultime notizie mi sembra che la maggioranza non ci sia più, è inutile accanirsi. È chiaro che questo è uno dei titoli che oggi troverete maggiormente citati dai giornali, Maroni che dice è inutile accanirsi, i numeri non ci sono più. A proposito di numeri, come sapete nella scorsa settimana e ci sarà anche in questa settimana assisterete a tutta una serie di interviste a parlamentari che fino a ieri erano poco conosciuti, erano di basso profilo, un po' nelle retrovie, tra i numeri dei 630 tra deputati e senatori non erano certo i più famosi. Eppure ora ogni voto conta e dunque l'ultima defezione in ordine di tempo arrivata ieri sera al Popolo della Libertà è quella di Gabriella Carlucci, che ha detto lascio il Popolo della Libertà, vado nell'UDC. Anche il giornale titola pagina 6, Camera, la Carlucci lascia il PDL, ma ecco qui, ma arrivano altri 4 deputati. Nell'articolo in realtà di Fabrizio De Feo non si capisce quali siano i deputati che dall'UDC invece sarebbero pronti a passare al Popolo della Libertà. Non vengono citati, ma così viene adombrata questa possibilità, raccogliendo anche un po' l'ottimismo di Berlusconi di ieri, che dice ci sono dei deputati che stanno arrivando da noi. Sta di fatto che oggi e domani Berlusconi incontrerà quelli che vengono definiti i malpancisti. Berlusconi marca a uomo i malpancisti, titola sempre il giornale. Sta di fatto però che uno dopo l'altro ci sono dei parlamentari che stanno appunto uscendo allo scoperto a dire io non voto. Per esempio oggi viene intervistato su Repubblica a pagina 2 da Liana Milella l'onorevole Pippo Gianni. Ora per me è difficile votare la fiducia, lui è del PID, il partito PID. Dice Pippo Gianni, io non sono né economista né ragioniere, sono medico, ma è chiaro che c'è qualcosa che non funziona nell'intervento economico. L'ho detto a Berlusconi, ma Tremonti vuole continuare a giocare o rilanciare l'economia? Il PID ha fatto delle proposte. E poi Pippo Gianni racconta un po' quello che è l'atteggiamento di molti parlamentari. Cosa succede? Non lo so, si vedrà giorno per giorno. Previsioni non ne faccio, non sono per le fantozziate. Dico quello che so, quello che penso e quello che capisco. Come è scritto nella Bibbia, ogni giorno ha la sua pena. Dipende se dentro ci sono le cose che ho chiesto nel maxi emendamento per capire se lo voterò oppure no. Anche se già domani c'è il rendiconto generale dello Stato che va al voto, ma su questo si presume che ci sarà la maggioranza, perché è un atto dovuto e quindi bocciare quel rendiconto avrebbe anche delle problematiche e delle problematiche conseguenze per il bilancio appunto dello Stato. E un altro invece parlamentare, questo è nuovo, intervistato dal Corriere della Sera oggi a pagina 11 da Fabrizio Roncone e che mostra le sue perplessità, e per la verità è la prima volta che esce questo nome, è Francesco Stagno dal Contres, che inizia così: eccomi qua, dica pure, senta, si vocifera che anche lei stia per abbandonare Berlusconi al suo destino. Mollare è un verbo che non mi piace. Poi fa tutto un ragionamento lungo Sergio dal Contres, dice io sto con Berlusconi dal 96, sempre fedele, mai e poi mai lo abbandonerò, il mio voto l'ho sempre avuto, vedo un sacco di deputati invece che annusando l'emergenza vanno a Palazzo Grazioli a ricattare il Premier. Beh, questa è un'accusa gravissima, onorevole. Sì, lo è come, ma corrisponde a verità, è ciò che vedo. E allora? Beh, quelli vedono che tutti ricattano Berlusconi e io che faccio? Lei che fa? Io chiedo. Ah, come lui chiede. E in che senso? Ricatta? No, chiedo. E cosa chiede, onorevole? Allora, nel 2009, dalle mie parti a Giampilieri, una frazione di Messina, ci fu un'alluvione terrificante, 38 morti. A quella tragedia ne stava per seguire un'altra. A San Fratello una frana cominciò a far letteralmente scivolare l'intero paese. Fatti inequivocabili, per i quali la Presidenza del Consiglio ha stanziato 160 milioni di euro, che però rientrano nel patto di stabilità della Regione Sicilia. Quindi, onorevole, è come se fossero congelati? Esatto. Per questo io dico, visto che vi state giustamente mobilitando per l'alluvione della Liguria, non potete dimenticarvi di quella di Messina. E questa sua richiesta, onorevole, se non verrà ascoltata, lei dice che non verrà ascoltata? Insomma, vedete, adesso questo è il momento in cui anche parlamentari che pensano di poter avanzare delle richieste, a torto, a ragione, sapendo di essere decisivi, in questo caso l'onorevole Francesco Stagno dal Contres dice vi occupate della tragedia di Genova e a Messina questi 160 milioni li vogliamo tirare fuori che sono congelati nel patto di stabilità della Regione Sicilia? Fatelo, perché altrimenti, questo si fa lasciare intendere, il mio voto è qui a disposizione. E dall'altra parte invece Sandro Bondi, intervistato dalla Stampa, L'ex ministro dice Silvio non può lasciare, si guarda con molta attenzione ai radicali, un'intera pagina su Repubblica, Goffredo De Marchis racconta di come tra oggi e domani Bersani tornerà a incontrare i radicali, PD e radicali non si parlano da tempo, sebbene i radicali sei onorevoli siano eletti di fatto con l'apparentamento con il Partito Democratico, sono nel gruppo Partito Democratico, ma sapete che ultimamente c'è stata qualche vicissitudine, ora tornano a parlarsi, perché il momento anche questo è decisivo, cioè sono sei voti. Tutto conta, ci sono momenti in cui i voti contano molto di più di uno. Giuliano Ferrara sul Foglio in prima pagina torna a ribadire, ci vogliono le elezioni sotto la neve, che sono però una soluzione difficilissima, essendo critica e complicata per tutti, e chissà. Ma certo, dice Ferrara, elezioni sotto la neve e un super ministro economico subito, queste sono le soluzioni. Intanto, se domani sul voto sul rendiconto generale dello Stato potrebbe, dovrebbe esserci la maggioranza, si guarda invece con molta attenzione a quello che è il maxi emendamento alla legge di stabilità, che è quello che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. In realtà non è stato ancora messo a punto, non se ne conosce la versione definitiva, pare che i tecnici del Ministero dell'Economia abbiano lavorato anche tutta la domenica di ieri, anche la domenica sera, perché deve essere presentato oggi in Commissione Bilancio al Senato. Il maxi emendamento al test verità, così il Sole 24 Ore, pagina 9, Antonello Cherchi racconta di già il passaggio di mercoledì di domani sul rendiconto generale dello Stato potrebbe rappresentare un problema per il governo, ma poi questo maxi emendamento sul quale Berlusconi ha detto porremo la fiducia, è questo l'elemento su cui si misurerà veramente la consistenza attuale della maggioranza. In tutto questo, invece, la seconda notizia a fianco della politica che ancora campeggia sui giornali è l'emergenza maltempo. Ieri a Pozzuoli è morto un uomo, la macchina è stata schiacciata da un tronco che è caduto, ma sui giornali è ancora pieno delle polemiche, mentre l'attenzione è tutta rivolta oggi a Torino e a tutte le città interessate nel nord Italia dalla possibile piena del Po. Ma le polemiche appunto sono tutte ancora su Genova. Il sindaco Marta Vincenzi ribadisce, ieri si era vociferato di possibili dimissioni, non mi dimetto. Ieri però ha detto porterò le vittime sulla coscienza, e da qui ripartiamo dopo il traffico perché ci sono degli editoriali anche molto interessanti, per esempio Repubblica, che è il giornale politicamente vicino al Partito Democratico, e Marta Vincenzi che dice con Francesco Merlo in prima pagina il sindaco deve andarsene. Tra poco. Alle 7:47 minuti porterò le vittime sulla coscienza. Questo ha detto ieri il sindaco di Genova, Marta Vincenzi. Porterò sempre le vittime di questo disastro sulla mia coscienza. La responsabilità ce la prendiamo tutti e io per prima. Questo ha detto ieri intervenendo a Canale 5, poi peraltro fa sapere il Corriere della Sera con Marco Imarisio, per tutto il giorno ha spento il telefonino, non si è fatto trovare, tanto che si vociferava, ecco, è un passo dalle possibili dimissioni. Poi a sera ha detto il sindaco Vincenzi, mi avete fraintesa, io sto vivendo queste morti però come un fatto personale. Sta di fatto intanto l'accusa molto dura del secolo XIX, oggi in prima pagina, è questa l'avviso beffa dopo l'alluvione, la mail del comune. Alle 15:35, tre ore dopo il dramma, non fate uscire i ragazzi da scuola. Il secolo XIX parla anche della Vincenzi nella bufera, dice però dimettersi ora sarebbe vergognoso, però medita già di non ricandidarsi la prossima stagione. L'anno prossimo ci saranno le elezioni per il rinnovo del sindaco a Genova. Ebbene, racconta il Sole con Donata Bonometti a pagina 3, i presidi contro il sindaco Vincenzi, ormai guerra aperta, colpi di circolare, documenti rintracciati nella posta delle scuole. Il tema è quello, andavano o no chiuse le scuole? Il sindaco ha sempre detto di no, sarebbe stato peggio chiuderle, perché c'era gente che si riversava per le strade cercando di piazzare i propri figli, magari da un nonno, da un parente, da un vicino, e quindi avrebbero creato ulteriori problemi. E su questo c'è però questa circolare beffa che è stata spedita dal comune alle 15:38 del 4 novembre, quando ormai le esondazioni erano già avvenute, erano già venute la mail. A seguito di esondazioni verificatesi in diverse parti della città, si segnala che alcuni cittadini potrebbero essere impossibilitati a raggiungere le scuole e le abitazioni. Raccomandiamo pertanto di prevedere la possibilità di custodire gli alunni anche oltre l'orario scolastico normale. Ma insomma, l'alluvione c'era già stata, la circolare è stata diffusa 2 ore dopo la tragedia, a quel punto già i presidi si erano attrezzati da soli, molti non leggevano certo in quel momento la posta, internet era saltata, quindi questa circolare non è stata letta da molti e comunque è stata mandata secondo il secolo XIX con un grave ritardo. In prima pagina di Repubblica Francesco Merlo ora oggi è durissimo. Se il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, avesse ordinato la chiusura delle scuole, non ci sarebbero stati 4 morti. Sarebbero salve sia le mamme sia le bambine. Perché dunque la signora non si calma e non riconosce l'errore invece di sostenere che l'allarme della Protezione Civile non doveva essere preso sul serio? La Vincenzi addirittura dice che dar seguito a quell'allerta sarebbe stato, e l'ignobile parola è sua, terrorismo. Fare il proprio dovere è terrorismo? Invitare i cittadini a stare a casa perché diluvia significa spargere il terrore? Tanto più che dopo il nubifragio, davanti ai morti, la Vincenzi ha parlato di tsunami. Prima sottovalutato per incompetenza, poi ha sopravvalutato per discolparsi. Il punto è che la Vincenzi, sia prima sia dopo, soprattutto dopo, si è dimostrata drammaticamente inadeguata. Perciò dovrebbe essere rimossa non dall'acqua che porta via tutto, anche gli innocenti, ma dai leader del suo partito. Non dal dolore furioso della piazza, ma dal senso di responsabilità della politica. Il sindaco farfuglia così, parlando di danno autoprodotto. Tante persone si sono messe in pericolo da sole. Leggiamola insieme questa frase, scrive Merlo. La Vincenzi vuol dire convintamente che quelle madri e le loro bambine si sono suicidate? E piange la Vincenzi mentre esprime questa enormità, mentre commette questo vilipendio di cadavere. Dice in sostanza che se la sono andata a cercare, della stessa tesi di chi pensa che le belle donne attirano gli stupratori, che i rapinati non devono portare l'orologio al polso e il portafoglio in tasca, che la colpa è sempre delle vittime. Insomma, il titolo è un sindaco inadeguato, un attacco molto duro di Francesco Merlo che su Repubblica dice bisogna che la Vincenzi si dimetta. Vabbè, io voglio andare in rapida conclusione alla prima pagina del Sole 24 Ore. Metà delle imprese paga più tasse. In questo momento, certo, non è il massimo della vita sapere questa notizia. Trovate tutti i dettagli a pagina 3. Un'impresa su due paga ancora di più. È un monitoraggio dei dati infocamere sui bilanci 2010. Un'azienda su due ha pagato più tasse nel 2010. Nero su bianco è questo il dato che emerge e che viene analizzato appunto a pagina 3 del Sole 24 Ore. Due notizie di chiusura di giudiziaria. Domani si apre il processo d'appello per l'uccisione di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco, imputato, assolto in primo grado è Alberto Stasi. Parla la mamma di Chiara, intervistata dalla Stampa, dice praticamente io sono la mamma, intervistata da Fabio Poletti a pagina 17, io sono la mamma di Chiara, attendo ancora che mi dicano chi ha ucciso mia figlia. Riguardo ad Alberto Stasi, non so se va al cimitero, non ne so nulla, non l'ho più incontrato, ma non ce lo ha nemmeno mai chiesto. Non ritengo sia opportuno incontrarlo ora e comunque ribadisco, non ce lo ha mai chiesto. E invece Amanda Knox, che è tornata a Seattle libera, vabbè, ormai si segue tutto quello che fa, pare sia andata a convivere col suo primo fidanzatino di 24 anni. Così è, ve la leggo dai giornali. Ora il giornale radio.